America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. L'America è di nuovo in una crisi morale legata ai problemi dell'immigrazione e una decisione del segretario alla giustizia Jeff Sessions ha di fatto aperto la strada per poter deportare, pensate, 800.000 ragazzini che erano arrivati negli Stati Uniti che ormai sono adulti. Sentiamo Sessions. We reviewed the Obama administration's DACA policy. This does not mean they're bad people or that our nation disrespects or demeans them in any way. Session dice: abbiamo deciso di annullare il DACA, che sta per Deferred Action for Childhood Arrivals, che era un ordine esecutivo firmato da Barack Obama nel 2012 per risolvere questo problema dei ragazzini arrivati negli Stati Uniti ma cresciuti come americani, consentiva loro di poter andare a scuola, di restare nel paese. Dice Session: lo abbiamo annullato non perché riteniamo che questi immigrati siano cattive persone o perché non li rispettiamo, ma solo perché si tratta di un provvedimento incostituzionale. E dunque eccoci qua di nuovo alle prese con i meandri giuridici che spesso soffocano questo paese. Comunque sia, questa è la giustificazione del segretario alla giustizia americano per aprire la strada, come dicevo, per deportare 800.000 persone. Questi ragazzini erano arrivati con i loro genitori, erano arrivati con genitori che ovviamente non avevano le carte in regola, ma loro erano piccoli. La stragrande maggioranza di questi ragazzini di origine messicane, di El Salvador, Guatemala, Honduras, Perù, insomma un po' dappertutto, soprattutto ispano-americani. L'ordine di Obama dunque è annullato. Attenzione, ci sarà tempo fino al 5 marzo del 2018 prima di procedere con queste deportazioni. Deportazioni, ecco, questa è la parola chiave, perché qui non si tratta, già allora ci fu molta polemica ovviamente, qui non si tratta però di islamici che qualcuno poteva sospettare di collusioni con il terrorismo, che magari chiedono un visto di soggiorno, e già quella, ricordate, fu un'azione clamorosa e ingiustificata di Trump, ma qui si parla di deportazione di persone che in termini pratici ci sono cresciuti in America, si sentono americani. Ecco, Trump stesso però si è reso conto che la cosa è molto delicata e non è andato fino in fondo, ha rimandato, come diceva lo stesso Session, la palla nel campo del Congresso. Diamo legalità giuridica a questo provvedimento, ha detto. La porta, insomma, non è chiusa del tutto, però la vicenda torna ad essere ostaggio della politica, torna l'incertezza, torna l'umiliazione, torna la paura di essere illegali, deportabili, di essere strappati dalle proprie case, dalle proprie comunità in cui questi ragazzi sono cresciuti. Queste sono le voci di alcuni di questi 800.000 ragazzi raccolte dai media americani che nella giornata di ieri, devo dire davvero drammatica, hanno coperto a tappeto questa vicenda. I was brought when I was 11. I came when I was 7 from Brazil. I was about 10. I was 12 years old. I was 7 years old. We crossed the border, but we were little. Ecco, avete sentito una cacofonia di accenti che arriva un po' da tutta l'America, sono però parole misurate che raccontano una storia. Sono arrivato a 10 anni, sono arrivato a 7 anni dal Brasile, dall'Honduras, dal Messico, sono andato a scuola, lavoro, pago le tasse. Perché la cosa è drammatica? Perché stiamo parlando di 800.000 americani di fatto, se non di diritto. Questi ragazzini sono cresciuti qui, sono arrivati con i loro genitori, si sono integrati nella società locale dove vivono, molti sono andati in guerra, complessivamente contribuiscono miliardi di dollari al fisco. Avevano un problema oggettivo, l'illegalità teorica. Obama l'ha risolto. Oggi tornano in un cono d'ombra e l'America è stordita per questo sviluppo. Da una parte la sua base politica, una base di irriducibili che rappresenta in questo caso, pensate, solo circa il 20% del paese. Ecco, questa base vuole punizione, inflessibilità, una base convinta, come dice lo stesso Trump, che i dreamer, i sognatori, questi ragazzi, coloro che sono cresciuti nel sogno americano, non possono rubare lo stesso sogno ai nativi. Ecco, questa è la tesi, furto. Ma non c'è nessun furto, semmai qui parliamo di arricchimento. Posso dirvi che su questi temi è ancora la maggioranza del paese che ritiene sia un diritto di chi si è integrato fare parte dell'America, anche perché questi 800.000 sono stati sacrificati sull'altare della politica. Vi dicevo prima, 5 anni fa Obama chiese di passare una legge sull'immigrazione in Congresso, la polarizzazione politica ha prevalso, ha vinto. Ecco, questi ragazzi avrebbero avuto l'opportunità di poter finalmente essere semilegali in un paese in cui sono arrivati da bambini. Well, I think it would mean yet another big slap in the face by this president, who really does not understand what the immigrant community and immigrants have contributed to this country. I think it would be a heartless act. Ecco, avete sentito alcuni degli interventi sulle reti televisive americane. Ecco, devo dire, qui non c'è solo emotività, c'è anche un risvolto economico controproducente per Trump e per i suoi obiettivi di crescita, perché questi ragazzi hanno un ruolo centrale per l'economia di questo paese. Pensate, il 97% studia o lavora, il 5% ha aperto un'attività imprenditoriale che dà lavoro ad altri, il 65% ha acquistato un veicolo, il 16% ha già acquistato la sua prima casa, almeno il 72% delle prime 25 aziende della classifica di Fortune ha dipendenti che usufruiscono di questo DACA, di questo permesso. E per questo poi il fiorfiore dell'imprenditoria americana è sceso in campo. Pensate, 300 grandi manager, tra cui Mark Zuckerberg di Facebook, Jeff Bezos, Sundar Pichai, Satya Nadella rispettivamente di Amazon, Google, Microsoft, titani dell'industria, la General Motors, la General Electric, hanno scritto una lettera aperta in cui chiedevano a Trump di proteggere i diritti di questi immigrati. Pensate, secondo questi top manager, cancellare il DACA farebbe perdere all'economia americana 460 miliardi di dollari di PIL, 24,6 miliardi di dollari in contributi per la Social Security e per il Medicare. E Trump che dice? Sentiamo il suo unico commento. People think in terms of children, but they're really young adults. I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them. Ecco, Trump dice: non sono bambini, questi sono giovani adulti. In ogni caso a me stanno molto a cuore. Ora speriamo che il Congresso sia in grado di legiferare per aiutarli come si deve. La soluzione di lungo termine è l'unica opzione valida. In sostanza, come dicevo, Trump mette la palla nel campo del Congresso. Fra le altre notizie, la crisi coreana continua. Vladimir Putin entra a gamba tesa. Basta sanzioni, dice. Anche lui vuole mediare. Ecco, in questa incertezza la borsa ha perso ieri l'1%. Uragani. Dopo Harvey, che ha distrutto Houston, spunta Irma. Un altro uragano, addirittura forza 5, ancora lontano alle Antille, ma questa volta è la Florida a prepararsi all'impatto previsto per venerdì. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, i ragazzi parte degli 800.000 hanno dimostrato un po' dappertutto in America, hanno cantato ieri per le strade americane la loro canzone simbolo This Land Is Your Land, This Land Is My Land di Woody Guthrie. Eccola in una versione di grande emotività, devo dire, nell'interpretazione di Bruce Springsteen. Well, I rode that ribbon highway. I saw above me the endless skyway. I saw below me the golden valley. Well, this land was made. I roamed and rambled, I followed my footsteps through the sparkling sands of her diamond deserts, and all around me a voice was calling. It said this land was made for you and me. Well, this land is your land. This land is my land, from California to the New York Island, the Redwood Forest, to the Gulf Stream waters. Well, this land was made well. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.